un po' distanti per partire, per andare. Tanto lavorato, tanto faticato, ho guadagnato tanto per finirla, sai. Questa triste vita mia, la, la, la, la, la, sogni grigi sempre uguali, cuore dentro me, certo avrò ciò che mi serve per andare, basterà un solo istante per partire. Basterà un solo istante.